Siamo giunti al secondo appuntamento legato alla rassegna Dassi all'Europa, itinerari della memoria per uno sguardo al futuro. Rassegna che vede coinvolti i tre istituti culturali ecclesiastici diocesani, che sono appunto la biblioteca, che ospita la mostra insieme all'archivio storico di cui sono esposti alcuni documenti, e il Museo Diocesano, dove è allestita la mostra che, se chi è qui presente non ha ancora visto, potrà visitare nel weekend, e di cui il catalogo che è disponibile racconta le opere insieme appunto alle opere della biblioteca. Già dall'anno scorso, appunto, unita all'evento mostra, quindi agli eventi espositivi sia del museo sia della biblioteca, è stato scelto di un percorso anche tematico dal punto di vista di conferenze che molti studiosi, alcuni studiosi che frequentano le nostre istituzioni ci hanno proposto. L'idea di scegliere appunto nuovi e giovani soprattutto studiosi è stata, direi, vincente, perché finalmente sono presentati nuovi studi e anche nuove figure. Ora vi presento il nostro relatore di questa sera, che è il dottor Gaspare Licandro, che stasera appunto ci parlerà di una storia interessante: Rocchetta Tanaro al centro degli studi ampelografici in Europa, la collezione di vitigni del marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta. Questo perché nell'ambito del viaggio appunto, in questo caso del vitigno, poi lui ci spiegherà bene l'intervento e i legami con questa mostra. Allora, Gaspare Licandro, dopo il diploma di maturità classica al Liceo Classico Vittorio Emanuele III di Messina, si laurea in biologia con indirizzo biodiversità presso l'Università di Messina. Ottiene l'abilitazione alla professione di biologo e il dottorato in biologia delle alghe. Poi nel suo curriculum accademico vanta un master di secondo livello in diritto dell'ambiente e altri corsi come l'analisi di rischio e la certificazione ambientale, la bonifica dei siti inquinati, e ha anche frequentato corsi di formazione in nutrizione umana e dietoterapia, e anche dei master in naturopatia. Io ho conosciuto appunto Gaspare perché oltre ad essere appunto biologo e nei suoi studi appunto di biologia si è specializzato nello studio degli erbari, e quando è arrivato ad Asti il nostro incontro è stato appunto quello, mi ha chiesto: ma in questo seminario si conserva qualche erbario? E io sapevo dell'esistenza di un erbario. Gli ho mostrato questo erbario e lui ha fatto una grossa scoperta, che è stata presentata appunto lo scorso anno, perché appunto questo erbario conservato nel seminario vescovile di Asti fa parte di un erbario di padre Giuseppe Pellanda, su cui appunto lui ha condotto degli studi. Intitolati appunto su due erbari del Barnabita padre Giuseppe Pellanda, una ricerca storico-botanica tra Asti e Moncaglieri, proprio perché il nostro erbario ha affinità appunto con quello di Moncaglieri. Oltre agli studi appunto sugli erbari astigiani, questo erbario astigiano e di Moncaglieri, ha condotto gli studi su un importantissimo erbario storico di Moncalvo, conservato appunto presso l'archivio storico di Moncalvo, è un erbario ampelografico della seconda metà dell'Ottocento, e poi diversi studi sulle collezioni degli erbari veneziani. Quindi ha girato veramente un po' dappertutto e ha studiato le fonti. Adesso vi presenta questa ricerca, che è totalmente inedita, e ascolteremo appunto da lui che cosa ha scoperto e le novità che ci sono su appunto questi vitigni. Grazie mille e buon ascolto. Allora, colgo l'occasione per ringraziare Deborah che mi ha dato la possibilità, diciamo, di esporre questa ricerca. E diciamo che questa ricerca parte anch'essa da un erbario, perché tempo fa, nel 2013, proprio nell'archivio storico di Moncalvo, ho scoperto un erbario ampelografico che ha la caratteristica di essere formato da essiccata di varietà di vite provenienti da varie località, probabilmente sicuramente alcune varietà sono piemontesi, in base allo studio che ho effettuato, ed altre estere. E da lì ho iniziato a interessarmi dell'ampelografia. Dall'ampelografia sono andato a finire a studiare i personaggi che in qualche modo... Sì, no, tra poco arriverò a spiegare cosa sia l'ampelografia, che è una branca della botanica sistematica, che non avrei mai affrontato se non avessi trovato questo erbario a Moncalvo, né mi sarei interessato alla collezione ampelografica del marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta se non avessi trovato questo erbario, di cui parlerò brevemente poi in seguito. Allora, che cos'è l'ampelografia? Quindi iniziamo con la terminologia anche per capire le fonti che insieme a voi vedrò durante questa conferenza. Quindi è una branca della botanica sistematica che studia la descrizione dal punto di vista morfologico delle varietà di vite. Infatti l'etimologia, quindi sempre dal greco, rigorosamente dal greco, ampelos vita e grafia descrizione. Quindi cercando la definizione specifica nel dizionario Treccani che si trova in rete, quindi disciplina che descrive dal punto di vista della morfologia esterna i differenti vitigni e li classifica secondo determinati criteri sistematici, quindi la descrizione tecnica. Quella di cui tratterò è l'ampelografia tradizionale, che ancora oggi viene studiata all'università, ma in realtà ora si punta e si hanno finanziamenti soltanto nell'ambito dell'ampelografia molecolare. Questa la lasciamo agli scienziati e ai biologi specializzati in biologia molecolare. Noi facciamo, diciamo, andiamo indietro nel tempo e ci interesseremo durante questa serata solo di ampelografia tradizionale. Iniziamo già subito a descrivere, fare un elenco dei personaggi che hanno caratterizzato la storia di questa disciplina. Il primo in assoluto è il conte Alexandre Pierre Odard di Tours, il quale diede ufficialmente come si dice, una struttura a questa disciplina attraverso una pubblicazione. Diamo anche un volto a questo personaggio, perché nei testi ci sono solo i nomi scritti. A me piace moltissimo durante gli interventi dare un volto ai personaggi. E anche in caso vedremo delle immagini delle varietà di vite, che non siano dei freddi elenchi, ecco, o fredde descrizioni di varietà, ma vedremo anche queste rappresentazioni delle varietà in seguito. Quindi torniamo al conte Odard, lui scrisse queste essai d'ampelografia nel 1841, che è il testo base storico dell'ampelografia come materia. Poi, successivamente c'è il marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta che pubblicherà due cataloghi, uno nel 1862 dei suoi vitigni, caratterizzato da ben 105 varietà diverse di pregio, sia autoctone, quindi astigiane che estere, e un altro catalogo nel 1869 che vedremo, dove sono descritte ben 376 varietà diverse di vitigni. Ecco un altro personaggio, il conte Giuseppe di Rovasenda, che pubblicò un saggio di un'ampelografia universale nel 1877, poi tradotto in francese. Fu così importante a livello europeo che fu tradotto in francese e anche in altre lingue. Quindi abbiamo anche questo primato per quanto riguarda, è un primato italiano quello dell'ampelografia universale. E poi alla fine questo personaggio, questo è il barone Antonio Mendola di Favara, quindi siciliano dell'Agrigentino, che tentò di pubblicare un'ampelografia Pelenologia italica. Questo termine ampelenologia è la sintesi tra ampelografia, viticoltura ed enologia. Anche quest'altra cosa la vedremo in seguito. Non riuscì a pubblicarlo perché un suo dipendente licenziato fece scomparire i manoscritti e il materiale ampelografico. Quindi, in qualche modo, penso che si potrà ricostruire la sua opera solo attraverso il carteggio. Questa forse sarà una mia futura ricerca col marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta. Col quale c'era una fitta corrispondenza. E infatti anche il barone Antonio Mendola, vi anticipo, stava effettuando uno studio allora sulla piemontesizzazione delle varietà siciliane a Rocchetta Tanaro, quindi tramite il marchese, e varietà astigiane finirono in Sicilia perché c'era uno scambio di vitigni. Vedremo anche che nel catalogo del Marchese risulta una varietà di viti col nome dialettale siciliano. Quindi, torniamo al Conte Odare, quindi pubblicò queste sette ampelografie, descrizione dei cepages, le più estime d'antous le vignobles dell'Europe, e poi nel 1845 un approfondimento di questo trattato di ampelografia. Nella sua residenza, questo castello della Dorée presso Evres, si pensa almeno un migliaio di vitigni, quindi aveva questa collezione ampelografica con varietà diverse provenienti da varie parti d'Europa e anche del mondo. Andiamo al Marchese, ecco, questo è il titolo del primo catalogo pubblicato dal Marchese, è abbastanza lungo, io vi dico la verità, sono contrario a troppo testo nelle slide, ma in questo caso ho dovuto fare un'eccezione anche in altre, perché le fonti erano interessanti e volevo condividere con voi la lettura direttamente, diciamo, dal testo di queste fonti. In alcuni casi proprio ho estrapolato l'immagine della fonte originale, così vedete dove è presente nel testo o come sia la grafia di determinati personaggi che tratterò nel documento. Quindi descrizione dal vero di numero 105 varietà di uve, quindi 1862 a Rocchetta Tanaro c'era questa collezione, parte indigena e parte di origine estera, tutte raccolte nel territorio del comune di Rocchetta Tanaro, circondario di Asti, ed ivi esposte nell'autunno 1861, con l'aggiunta di qualche cenno sul loro relativo merito, nonché sulle condizioni convenevoli alla cultura delle rispettive ceppaie, vabbè, lavoro del Marchese Leopoldo, eccetera, quindi fu pubblicato, e poi il secondo catalogo nel 1869. E pubblicò pochissime copie che distribuì ai suoi amici, però fortunatamente io ho scoperto una rivista di agricoltura del tempo in cui a puntate fu pubblicato il primo catalogo. In questo modo sono riuscito a capire, a conoscere le varietà presenti nel primo catalogo, mentre per quanto riguarda il secondo, negli anni 70 è stata fatta una ristampa, anzi una trascrizione del secondo catalogo a opera di Ricaldone. Pubblicò proprio uno studio sulla collezione del Marchese. Quindi, nel secondo catalogo, come detto prima, ci sono 376 varietà di viti. Un altro personaggio, il conte Giuseppe di Rovasenda, amico del Marchese, e autore del saggio di un'ampelografia universale nel 1877. Come vi ho detto prima, fu tradotta in francese, se di un'ampelografia universelle par Messier con José de Rovasenda Montpellier, quindi lo leggo alla francese anche invece di Rovasenda. Quindi il catalogo generale di viti del signor di Rovasenda è stato giudicato, diciamo, molto favorevolmente dagli ampelografi illustri del tempo, diciamo, per rispondere al loro desiderio, diciamo, di averlo. Quindi, e in questo caso è stato tradotto, e la cosa interessante è perché è stato tradotto, perché è stato considerato il più complet sa contradì de tous ceux qui ont paru jusqu'au séjour, quindi il più completo rispetto a tutti quelli che sono stati pubblicati fino a oggi. Quindi gli stessi traduttori elogiano questo catalogo. E a Verzuolo, quindi vicino a Saluzzo, il conte Giuseppe di Rovasenda riuscì a mettere insieme ben 4.000 vitigni. C'era la collezione ampelografica del Rovasenda. Nel tempo si perse, e quelli superstiti andarono a finire ad Alba, in base alla ricostruzione delle fonti. Ma attualmente non esiste più nulla della collezione, ci sono solo i riferimenti nei documenti. Poi passiamo al barone, e il barone ebbe come maestro il conte Odar in persona. Quindi, il barone Mendola aveva anche questi rapporti col conte Odar. Tentò di compilare un'ampelografia italiana, ma non ci riuscì, come ho detto, perché il carteggio, cioè, tutto il materiale, diciamo, sia probabilmente essiccata dei vitigni, i manoscritti furono trafugati da questo suo dipendente licenziato. E a Favara però riuscì anche lui a radunare una collezione considerevole di ben 4.000 vitigni, una delle più grandi del tempo. Anche era più estesa rispetto a quella del Rovasenda, secondo alcuni. Un altro personaggio importante è Pierre Vialà, per quanto riguarda l'iconografia ampelografica. Ecco qui, come vi dicevo, diamo, diciamo, un volto, tra virgolette, anche a queste varietà di vite, cioè, oltre alla descrizione, come erano rappresentate. E questo è il trattato, ed ecco alcuni esempi oltre alla descrizione in francese, rigorosamente in francese, di questo testo, ho messo in evidenza la balsamina e la luyenga nera, che saranno due varietà che risulteranno, vedremo nel catalogo dell'incisa. Ed ecco qui il famoso erbario dal quale è partito tutto, che alla fine, ricostruendo le fonti, che a me piace molto, ormai Deborah lo sa, mettere insieme sia lo studio scientifico che per quanto riguarda il materiale botanico di Exsiccata, che quello umanistico della ricerca delle fonti storiche, sono arrivato alla conclusione che l'erbario è stato realizzato da questo Luigi di Collegno, Luigi Provana di Collegno. E vi anticipo un inedito: sono riuscito a trovare le lettere che Luigi Provana di Collegno scrisse al conte Giuseppe di Rovasenda su vitigni piemontesi, quindi sullo scambio che ebbero i due, e si trovano alla Facoltà di Agraria di Torino. Quindi sono riuscito a trovare gli originali e un collegamento con l'erbario di Moncalvo. Questo è un primo inedito che sapete ora, diciamo, grazie a questa conferenza. Spero di poter approfondire e fare un ulteriore lavoro anche su questo. Il lavoro è stato pubblicato sull'Informatore Botanico Italiano nel 2014, e l'erbario è stato totalmente digitalizzato ed è consultabile in rete, quindi il lavoro è scaricabile in PDF gratuito e anche la consultazione. Grazie al direttore dell'archivio, il dottor Barbato, mi ha aiutato nella digitalizzazione e nella realizzazione del sito web. Vado avanti. Allora, in sintesi, vediamo i personaggi e le relative collezioni nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi in Italia abbiamo Giuseppe di Rovasenda a Verzuolo con i suoi 4.000 vitigni, il marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta con i suoi 376 vitigni, però tutti di pregio, anche va bene, pochi diciamo ma buoni, soprattutto autoctoni, e la collezione del barone Mendola di Favara nell'Agrigentino. Vediamo in Francia, abbiamo il conte Odard, quindi il suo castello teneva questa collezione almeno un migliaio probabilmente, e Victor Piulia, che è un altro ampelografo famoso francese, amico del marchese Incisa della Rocchetta, e anche lì ci fu uno scambio di vitigni. Quelli francesi, grazie al Piulia, arrivarono nell'Astigiano, e quelli astigiani arrivarono in Francia tramite il marchese. E in seguito il Boucher di Henri Boucher di Montpellier, che era un ibridatore, non era un ampelografo, quindi lui era specializzato nelle ibridazioni. Poi vedremo anche una pubblicazione. Ecco qui cosa scrive il barone Mendola di Favara. Scriveva moltissimo rispetto ad altri, ho trovato proprio anche nel carteggio del barone di Favara col conte di Rovasenda, perché erano amici, almeno un centinaio, rispetto ad altre lettere, cioè almeno un centinaio, minimo un centinaio di lettere sull'argomento relativo all'ampelografia. Quindi in Italia e più in Francia ci sono moltissime collezioni. Qua siamo nel 1876, e moltissimi collezionatori. Sgraziatamente non sono tutti conosciuti, non fanno tutti mutuo scambio di vitigni, di studi, di idee, compiono lavori solitari e celati, cioè poco fecondi. E ciò appunto perché si manca di pubblicità e di perpetuità. Sono pochi che tengono il catalogo in regola, pochissimi che lo stampano. Il marchese era tutto il contrario. Ha fatto pubblicità della sua collezione, aveva tentato anche di, ha creato, poi vedremo, ha finanziato la costruzione di un vivaio per vendere questi vitigni, e nello stesso tempo, diciamo in qualche modo, c'era una fitta corrispondenza tra lui e gli ampelografi del tempo, sia nazionali che esteri. Ecco qui una descrizione, quindi ad esempio questo è un esempio. Vediamo come erano amici, perché il barone Mendola di Favara era amico del cavaliere del conte di Rovasenda, che qui comunque specifica cavaliere. Mi si perdoni se il soverchio affetto che mi lega al diletto amico cavaliere Giuseppe di Rovasenda, il conte, mi fa correre sotto la penna prima di ogni altra la ricca e bella collezione che egli ha eretto a Verzuolo presso Saluzzo e riprodotta poi parte a Scholz e parte a Rovasenda. Già qua c'è l'elogio della collezione dell'amico. Poi andando giù, quindi a Biella ce n'era un'altra ne sta a Rocchetta Tanaro presso Asti, radunata dal compianto marchese Leopoldo Incisa, perché morirà nel 1871, già diretta ed amministrata, da poiché entrò nella fase commerciale, dal signor Gioacchino Vigna, allievo della scuola di Don Rebro di Casale Monferrato. ora morto anch'esso. Vabbè, cioè, vi ho anticipato alcune informazioni. Quindi il Marchese aveva la collezione, finanziò la costruzione di un vivaio che poi lasciò alla gestione di questo Gioacchino Vigna, un agronomo proveniente dalla scuola di Casale Monferrato, dove io sono anche andato alla ricerca di fonti. Mi anticipo che le fonti le ho cercate tra Casale Monferrato, quindi Asti, Casale Monferrato e la facoltà di Agraria di Torino. Quindi una sintesi del lavoro. Vediamo il volto, di nuovo in particolare il Marchese inciso, un po' la sua vita. Quindi iniziamo, concentriamoci sul personaggio. Quindi nasce ad Asti il 12 febbraio 1792, lascio stare, diciamo, nome dei genitori, l'ho messo lì per formalità. Nel 1812 si trasferisce a Milano e intraprende la carriera nel campo amministrativo. Poi in seguito, nel 1840, a causa di una malattia, dovette concludere questa sua carriera. Tornò a Rocchetta e si dedicò alla viticoltura e anche all'allevamento dei bachi, perché la famiglia svolgeva quindi la coltivazione dei gelsi e l'allevamento dei bachi. E la cosa interessante, nella domanda per essere collocata a riposo, ho letto i documenti, insieme allo stato di servizio è specificato anni di servizio 28 con l'interruzione di soli giorni 5, quindi era uno stacanovista questa persona. Ho voluto precisare questa la cosa. Quindi, come vi dicevo, all'età di 48 anni, quindi, a causa di questa malattia, ritorna a Rocchetta Tanaro, quindi l'aspetto positivo, diciamo, nel male, è che iniziò a dedicarsi sia all'industria del baco da seta e poi della vite. Approfondendo lo studio della vite, lui si interessò all'ampelografia. In particolar modo, per quanto riguarda l'industria del baco da seta, lui pubblicò questo lavoro sull'allevamento del baco da seta nelle località in cui domina una temperatura soverchiante umida, memoria presentata all'Accademia Medesima di Agricoltura di Torino, di cui era membro, in seguito ad un esperimento fatto durante la primavera del 1843 nel territorio di Rocchetta Tanaro, provincia d'Asti. Quindi lui inizia a sperimentare queste cose per quanto riguarda l'allevamento dei bachi. E infatti in questa rivista, mi sono messo a cercare un po' le riviste di agraria, sull'argomento dell'epoca, del 1844, c'è una descrizione, un commento del lavoro del Marchese, oppure dell'avvocato Felice Amato Duroin, vabbè, io lo francesizzo, dove c'è sull'allevamento del baco da seta, quindi viene elogiato questo lavoro del Marchese. E poi, messo in evidenza, volle l'anno passato provarsi a dirigere gli stesso un'educazione di primavera, quindi lui sperimentava direttamente, non mandava gli altri a fare questo lavoro, quindi, dopo averne sperimentato con un prospero successo autunnale, nel 1841, e dopo pure essersi convinto per esperienza propria della poca convenienza di affidare l'educazione a bigattieri esteri abituati a governare i filugelli sotto influenze affatto diverse. Era molto, come si dice, altruista. Infatti, oltre al vivaio in cui venivano realizzate le talee dei vitigni, lui realizzò un secondo vivaio dove veniva coltivato il gelso e poi venivano anche in seguito allevati i bachi di qualità, per soprattutto i contadini dell'Astigiano, e poi riuscì anche ad esportare questa cosa oltre. Vediamo un altro suo lavoro, ecco qui, sempre relativo alla vite, intorno allo svinare. Quindi questa è un'operazione che viene fatta dopo la prima fermentazione del vino, oppure alla fine, dopo l'ultima fermentazione, per quanto riguarda il passaggio del vino poi alla botte. Quindi lui ha fatto questo studio intorno allo svinare, osservazione e proposta di un mezzo per stabilire il momento opportuno a questa operazione, onde poter ottenere costantemente un vino di uguale bontà del Marchese Leopoldo Inciso della Rocchetta, membro corrispondente, letto nell'adunanza del 30 aprile 1845. Quindi lui inizia a sperimentare sui bachi, poi si specializza per quanto riguarda la vite. E proprio per quanto riguarda la vite, ho trovato nel dizionario geografico storico statistico commerciale del Casalis, in corrispondenza di Rocchetta Tanaro, è interessante questa cosa, è messo in evidenza un poggio ivi denominato Monte Bruno. Poi ho scoperto che dal punto di vista toponomastico è anche scorretto, perché non è Monte Bruno ma è Monte Bruna tutto unito, la località, coltivasi a viti. Quindi era così importante questo vigneto dei Marchesi Incisa, presente sette a Rocchetta Tanaro, che viene anche descritto e messo in evidenza dal Casalis nel dizionario geografico, quindi immaginate, nel 1847. Continuano e riescono squisiti i vini che forniscono quei vigneti. Sulla cima di quel poggio si vede un bel fabbricato proprio dei Marchesi d'Incisa. La strada per cui vi si ascende è praticabile con vetture nella bella stagione. Quindi già questi riferimenti. 1855 c'è un lavoro sulla solforazione applicata con somma utilità nella fattura dei vini da bottiglie. Praticamente utilizzavano lo zolfo per mantenere la qualità del vino. Effettuavano questa operazione, e c'è anche una pubblicazione dell'Ottocento che ho trovato dove c'è tutta la descrizione dell'operazione di solforazione, quindi se siete interessati basta cercare su Google Books solforazione applicata e esce fuori questo lavoro. Comunque andiamo avanti sempre. Ecco l'istituzione del vivaio. Anche qui è interessante perché sono riuscito a trovare questa fonte alla biblioteca civica di Alessandria, questa è l'economia rurale e il repertorio di agricoltura nel 1861, perché ricercando il catalogo dei vitigni del barone Antonio Mendola di Favara, che anche lì ci sarebbe solo da raccontare la storia su come sono arrivato a trovarlo questo catalogo, cioè sarebbe fare una conferenza su come sono riuscito ad arrivare alle fonti, devo dire la verità. C'era un riferimento al Marchese dove specificava questa varietà è descritta in base agli schizzi ampelografici del Marchese Leopoldo Incisa, e c'era il riferimento a questa rivista scientifica dell'epoca, quindi mi sono messo alla ricerca di questa rivista e la fortuna ha voluto che in questa rivista ci fosse la descrizione del vivaio e anche la storia del vivaio. Quindi l'istituzione del vivaio 1872, quello che vedete l'ho ripreso da questa rivista nel 1861, quindi grandioso vivaio in Rocchetta Tanaro presso Annone, ferrovia di Genova, circondario d'Asti. E non è un caso che fosse stato costruito lì, perché la ferrovia era a due passi per il trasporto dei vitigni sia a livello nazionale che estero, soprattutto con la Francia, era l'ideale come posto. Nel 52 si piantò il vivaio cui si tratta e successivamente vi si associò quello dei Gelsi, del quale si parlerà in appresso, c'è anche la descrizione di quello dei Gelsi. Intanto il vivaio delle viti nel 1854 era di già in piena attività, quindi ancora prima della pubblicazione di quei cataloghi che abbiamo visto, il 62, 1862, 1869, già nel 1854 era in piena attività. Esso poteva somministrare, oltre a 18 varietà nostrali, quindi autoctone, 12 dell'isola di Sardegna, le più rinomate, 29 circa di Francia, Spagna, Ungheria, anche qui poi ci sarà un approfondimento sui vitigni ungheresi che sono finiti ad Asti a metà 800, e in totale approssimativo 50 varietà. Poi andrà ad aumentare. Notificata al pubblico l'apertura mediante avvisi e diramazioni di cataloghi, la cosa non tardò ad essere accolta con favore e ad essere mira di domande considerevoli e frequenti. E qui inizia anche la mia ricerca ad Asti, alla biblioteca Astense, per quanto riguarda soprattutto in particolare la Gazzetta del Popolo. Praticamente mi sono messo a vedere tutte le gazzette, tutti i giornali dal 1862 fino al 1869, alla ricerca dell'inserto pubblicitario relativo a questo vivaio, e fortunatamente l'ho trovato, però vi dico la verità, non l'ho trovato alla biblioteca Astense. Poi vi spiego come. Quindi ora, sempre per quanto riguarda la fonte 1861, ora la direzione del vivaio è affidata all'agente del Marchese Incisa, signor Gioacchino Vigna, già questa informazione l'aveva anticipata, dimorante nel luogo di Rocchetta Tanaro, adesso potranno essere dirette tutte le domande che si riferiscono al vivaio stesso. E concludesi col dire che l'istituzione del vivaio di Rocchetta Tanaro ebbe per mira principale quella di essere utile agli esercenti, ecco qui la bontà del Marchese, due colture agricole industriali, le più importanti fra le colture del nostro paese e per le quali chi lo istituì dedicò sempre amore e studio, cioè quella dei Gelsi per l'allevamento dei bachi e quella della vite, le varie varietà. E ora ecco qui la sorpresa. Ho trovato l'elenco delle varietà di vitigni che erano realizzate, prodotte in questo vivaio, barbatelle di viti disponibili per la primavera nel 1860 con i prezzi. Quindi allora, 1860, c'era un numero 150, vabbè, Barbatelli, Aleatico di Toscana, Barbera d'Asti, Bordonero di due qualità, Bordo Bianco, Soterne, Balarani di Piemonte, Brachetto di Piemonte, Dolcino Dolcetto di Piemonte, Erba Lucente, Grignolino, Lambrosca, Luglienga, Malaga, Malvasia Bianca, Malvasia Nera, Miste Nostrali, Scelte, Moscato Bianco, Moscato Nero, Nebbiolo di Piemonte, Tocai d'Ungheria, ma in realtà quello è un falso, poi ho scoperto, infatti il Marchese nei cataloghi successivi fa una rettifica, poi vedremo, non è il vero Tocai d'Ungheria, Sardegna, miste sceltissime. Poi per le moltissime altre varietà che si coltivano nel vivaio, però non vi sono che barbatelle di un anno. Poi se uno voleva un catalogo dettagliato, bastava scrivere a Gioacchino Vigna e lui faceva recapitare questo catalogo. Eccoci qua, Gazzetta del Popolo, dopo una settimana di ricerche, Gazzetta del Popolo, 11 marzo 1865, anno 18, numero, vabbè, pagina 8. Dopo aver letto inserti allucinanti anche riguardanti la parapsicologia dell'Ottocento, vado a trovare, ecco qui, ai viticoltori, grandioso vivaio di molte varietà di viti nostrali ed estere, delle più scelte, posto nel territorio di Rocchetta Tanaro, Asti, per le domande dirigersi al signor Gioacchino Vigna, agente di Casa Incisa, dal quale dietro richiesta si potrà avere il catalogo delle varietà e dei prezzi rispettivi. Trovansi ancora disponibili per l'entrante primavera oltre a 60.000 barbatelle assai rigogliose, con radici di 2 anni ed alcune prossime a dar frutto. Cioè, questa è stata fortuna. Vi rivelo che ho trovato la fonte grazie a Google Books, perché in rete hanno digitalizzato e si trova in PDF un certo numero di questi giornali della Gazzetta del Popolo. Quindi anche lì, cercando a casa, quindi sono riuscito a trovarlo. Vediamo invece finalmente la collezione ampelografica del Marchese incisa attraverso questa rivista scientifica dell'epoca, L'economia rurale e il repertorio di agricoltura. Questa è stata veramente fortuna, perché per trovare questa fonte, inizialmente mi avevano un po' scoraggiato perché mi avevano detto sì, risulta, però materialmente non è qui, ma forse si è andata a finire chissà dove, poi l'hanno trovata. Per giunta il mio dubbio era, ci saranno tutti i numeri, fortunatamente c'era il numero che mi serviva, tra quelli che erano scomparsi. Allora, c'è una speciale esposizione agraria, ecco qui la pubblicità alla collezione di cui, aveva scritto il Marchese. Vogliamo dire di un'esposizione di uve tenuta dal signor Marchese Leopoldo incisa alla Rocchetta Tanaro, paese a pochi chilometri dalla città di Asti. Egli raccolse intorno a 150 varietà di uve, già qui 1861 si parla di 150, la maggior parte d'antica coltivazione dell'astigiana, alcune provenienti dalla Sardegna e dalla Francia, ma tutte coltivate da lui, talché il visitatore, dopo aver passato in rivista quella ben ordinata collezione di grappoli, infatti lui aveva la collezione in vaso, e tranquillamente uno andava lì al castello, cioè insieme a lui, diciamo, osservava le varietà, e poi nei vigneti poteva andare a scegliere quella da acquistare attraverso il vivaio, c'era questo giro. Quindi collezione di grappoli, di aver appreso il nome di ciascuna varietà, i caratteri, le proprietà, le differenze, può vederne a breve distanza la coltivazione in grande e i piantoni raccolti in grandioso vivaio. Quindi qui vado avanti, poi ci sono elogi, cose che si possono anche risparmiare. Diciamo, il succo è concentrato lì al centro della pubblicità relativa alla collezione. Ecco qui il primo catalogo, descrizione del vero, vabbè, abbiamo letto prima tutto il titolo, quindi ve l'ho anticipato, pubblicato in 3 parti sempre nell'economia rurale, repertorio, fascicolo 5, 6 e 7, 1862, numero successivo. Ed è stato definito dai critici dell'epoca guida ai piantatori di vigneti per quanto riguarda l'aspetto della viticoltura, guida al viticoltore enologo per l'enologia, quindi la descrizione del vino, la qualità del vino, guida ai viticoltori buon gustai, perché gran parte di queste uve, soprattutto quelle francesi introdotte dal Marchese, erano uve da tavola, o estere erano uve da tavola. Il Marchese incisa fece stampare poche copie della sua operetta, che distribuì privatamente ai suoi amici ed a coloro che gliene fecero la domanda, così che essa ebbe ristretta pubblicità. E invece, grazie a questa rivista, L'Economia Rurale, è stata ampiamente pubblicizzata. La verità è che la rivista era gestita da un suo carissimo amico anche, quindi siccome aveva ottenuto una copia, poi lui in qualche modo lo aiutò nel pubblicizzare la collezione. Ecco qui un particolare delle varietà tratte dalla collezione di Vitigni, quindi 105 varietà, e di come è strutturata, diciamo, l'opera. È abbastanza schematica, come vedete. Ad esempio, Balaran, denominazione volgare locale, Rocchetta Tanaro, Asti. Quindi c'è la descrizione del grappolo, l'acino, la buccia, il sapore, l'uva, e poi la vite, ad esempio, leggo così velocemente alcune parti: è produttiva, ama terreno fertile e soleggiato, ha merito bastante onde essere raccomandata per la propagazione. Vabbè, poi Borgogna Bianco, denominazione comune di origine della Francia, da poco coltivata in Rocchetta Tanaro Asti. È interessante vedere anche questa ricostruzione storica delle varietà estere introdotte ad Asti attraverso queste opere storiche. Ed ecco qui, alla fine, questo è interessante, alla fine si era annoiato anche lui a redigere questo catalogo, cioè un po' sono rimasto, e la nota è stata pubblicata lo stesso. Per compiere il numero delle uve da me esposte nello scorso autunno avrei dovuto descriverne parecchie altre ancora, ma essendo quelle di minor merito ho tralasciato di farlo. D'altronde il lavoro, per la naturale sua monotonia, mi diveniva tedioso, senza speranza di un morale compenso. Giacché mi sentii convinto che dal numero de più a questa mia fatica non si potrà attribuire che ben poco merito. Quindi già non era tanto ottimista. Cioè. Ma ciò non pertanto l'intenzione, o per dir meglio il desiderio che potesse essere di qualche utilità, non mi è mancato. E se lo scopo non è conseguito, si apprezza almeno il buon volere. Ma in realtà la collezione fu molto apprezzata sia a livello nazionale che estero. È stato un po' troppo pessimista nei confronti suoi della collezione. Vediamo ora il secondo catalogo, come ho detto prima, caratterizzato da 30, quindi c'è la descrizione di 376 varietà di vitigni, e qui ci sono informazioni interessanti per quanto riguarda il territorio. Quindi nel preambolo del catalogo della mia collezione tengo tre esemplari, di cui due piantati in piena terra sopra due colli diversi, e sono uno Colle Monte Bruna, sopra Rocchetta Tanaro, e Colle del Bricco, nel territorio di Rocchetta. Poi ora vedremo. Questi sono destinati a dare i mezzi di alimento ad un vivaio di moltiplicazione già da vari anni conosciuto sotto buoni auspici, diretto al signor Gioacchino Vigne. Cioè. Il terzo invece è coltivato in vaso sino a fruttificazione per constatare l'identità del frutto prima di mettere il vitigno in aperta campagna, e serve pure di permanente esposizione per gli studiosi di viticoltura che amassero visitarlo, al quale effetto non mancai di diramare avviso d'invito anche col mezzo dei giornali. Quindi se dovessi continuare la ricerca in alcuni giornali dell'epoca, probabilmente uscirà fuori la pubblicità relativa alla collezione specifica. Allora vediamo con Google Maps dove si trova questa, quindi Rocchetta Tanaro, sappiamo dov'è, quindi Castello di Annone, probabilmente il vivaio si trova lì vicino alla ferrovia. Spero ci siano testimonianze lì al comune, chissà, storiche. Bisognerebbe andare a effettuare una ricerca. E le località di cui vi ho parlato si trovano sopra Rocchetta, in particolar modo Asinara, Bricco e Monte Bruna. La collina di Monte Bruna si trova in quel punto, e ancora ci sono i vigneti. Quindi nel sito storico dove erano presenti i vigneti che alimentavano il vivaio per il commercio di queste varietà di viti del Marchese, ancora oggi ci sono dei vigneti, sono a Barbera, e non so se si può dire, sembra quasi che uno faccia pubblicità all'azienda, comunque sono gestiti, ve lo dico per una questione di correttezza, dall'azienda, non so, chiedo, dall'azienda Braida, quindi non sono più degli Braida, non sono più degli Incisa, anche se ora vedremo la famiglia Incisa continua l'attività del proprio antenato. Ecco un particolare, ecco qui, proprio sono andato a vedere il sito dell'azienda, dove c'è una descrizione anche del terreno, quindi i terreni di Montebruna sono composti da sabbie denominate astiane, argilla, marne e detricico, scusate l'accento, credo, vabbè, grossolano, noto con il nome di fossiano. L'esposizione è a sud-sud-est, altitudine 250 metri sul livello del mare. Infatti la natura argillosa del terreno permette, diciamo, la buona qualità dei vitigni, in base a quello che ho letto anche nel catalogo del Marchese. Per questo lui aveva scelto quel sito. Allora, effettuiamo una sintesi attraverso un diagramma della corrispondenza del Marchese. Quindi il periodo dal 1855 al 70 è abbastanza intenso per quanto riguarda gli studi di ampelografia. Quindi c'è uno scambio di vitigni, e quindi esiste un carteggio tra il conte Giuseppe di Rovasenda e il Marchese in Cisa, poi c'è il barone di Favara, poi altri corrispondenti, Emilio Bertone di Saint-Buy, l'amico grazie al quale è stato pubblicato il catalogo dei 105 vitigni sulla rivista scientifica, e Roberto Lawley, che ora anticipo una cosa, che ha messo in contatto il Marchese con Henri Boucher de Bernard l'ibridatore. Quindi grazie a Lawley, diciamo, il Marchese conobbe l'ibridatore e da lì arrivarono vitigni alla Francia. In più c'era una corrispondenza con Victor Pulia, e probabilmente ci saranno altri corrispondenti esteri che si scopriranno solo sondando l'archivio del Marchese, che è un archivio privato, è ancora esistente, è presente nel castello dei Marchesi in Cisa, Rocchetta Tanaro. Lì bisogna vedere con calma come poter accedere. Quindi io mi sono basato più sulle fonti che sono riuscito a trovare sia in rete, grazie alle biblioteche digitali che hanno permesso la consultazione di questi testi storici di ampelografia, e sia attraverso biblioteche e archivi. In questo caso Henri Boucher, quindi ibridatore, lui e anche i suoi figli sono famosi per questi ibridi, e in seguito fu pubblicato da Pierre Vialà, quello dell'iconografia ampelografica, proprio un testo sugli ibridi Boucher, che allora erano famosissimi. Vediamo un particolare tratto dal testo. Nel carteggio del Marchese, perché una parte del carteggio è stata trascritta dal Diri Caldone, quella persona che ha fatto uno studio negli anni 70 e proprio ha pubblicato uno studio sulla collezione del Marchese. Io sono partito da lì, poi ho scoperto altre cose inedite, però è interessante anche mettere in evidenza il vivo interesse di entrambi verso lo studio di questi vitigni. Quindi nel testo, in sintesi, il Boucher elogia il lavoro del Marchese, dice è un ottimo servizio alla viticoltura del vostro, quindi voi rendete quindi un ottimo servizio alla viticoltura del vostro paese, per quanto riguarda, e voi fate per l'Italia ciò che il conte Odaro ha fatto per la Francia, quindi un grandissimo elogio da questo punto di vista. Andiamo avanti, ecco un altro personaggio in contatto col Marchese, che era Victor Pulia di Quirouble, spero sia giusta la pronuncia della località, dove era presente una collezione ampelografica del Pulia, e pubblicò Mille variétés de vigne 1869. È interessante perché proprio in quest'opera ci sono riferimenti al Marchese, quindi tra i corrispondenti fondamentali, principali, è che il Marchese in Cisa è la Rocchetta. Hanno messo a Torino, ma in realtà doveva mettere a Rocchetta Tanaro, che non si spostò mai da Rocchetta Tanaro poi il Marchese. Ecco qui l'elenco delle varietà che il Marchese fornì a Pulia, quindi che finirono in Francia, quindi dalla collezione ampelografica di Rocchetta Tanaro, ecco l'elenco delle varietà che finirono in Francia nella collezione del Pulia. Che si trovava nei pressi di Lione, quindi a Ratalau Blanc, Sardegna, Ratalau Noir, Baria d'Orgia, Belisse Bianca, Bermestia Bianca, Bottonino Bianco, Cenerola, io velocizzo, Crovetto, Croetto, Lambrusca, Occhio di Pernice Bianca, Pelosina Bianca, Asti, Piccolito Bianco Friuli, Trippa di Po' Bianca, Valle del Tanaro, Asti. Ecco qui, ho messo in evidenza e ho estrapolato un pezzo dal testo, Belisse Bianca, Piemont Asti, quindi se varietà di vigne, ecco qui le terreni argillè, quindi terreni argillosi, che sono quelli di Montebruna, o la cultive surtout o Zembiron d'Asti, quindi nei dintorni d'Asti, soprattutto coltivati sulle sponde del Tanaro. Sagrappa e Fort Bell, quindi il grappolo, bello, diciamo, forte, è molto stimato per la tavola, quindi uva da tavola. Andiamo avanti, ecco, messo in evidenza, mi interessava anche, abbastanza curioso il nome di questa varietà, no? Trippa di Bo Bianca, vale, quindi traduco direttamente, Valle del Tano Roasti, quindi quest'uva di bell'aspetto si coltiva soprattutto come uva da tavola e di conserva nei dintorni d'Asti, questa Trippa di Bo Bianca. Ah, poi vedete in francese c'è questo bourgeonnement, che sarebbe la germogliazione, feuille, quindi la descrizione della foglia in francese, grappe, del grappolo, grain, dell'acino, quindi è lo schema standard degli ampelografi, solo qui in francese. Ecco qui la Cenerola Bianca, Piemonte, è interessante perché dice uva da tavola stimata in Piemonte, potrebbe essere introdotta con vantaggio nelle nostre regioni meridionali. Anche lì c'è questa proposta, molto interessante. Chissà se poi è stata realmente ben introdotta, poi bisognerebbe approfondire, bisognerebbe andare in Francia per vedere sì, che fine hanno fatto questi vitigni. Ecco, nel carteggio sempre del Marchese, grazie a Di Ricaldone che ha trascritto parte di queste fonti, c'è diciamo, questa lettera che il Piulia scrisse al Marchese, in cui specifica che alcune varietà di vite, in particolar modo 1000 esemplari di Syrah de l'Hermitage, che è una varietà preziosissima, non sarebbero arrivate a Rocchetta perché comunque erano esaurite. E quindi lui propone di sostituirle, facendo una traduzione veloce, con altre varietà, sempre su richiesta del Marchese. Quindi alla fine tutta questa corrispondenza è più legata ai vitigni, all'acquisto, oppure allo scambio equo di varietà astigiane e francesi. Ecco qui, allora, i contributi alla collezione ampelografica del Conte di Rovasenda. Il Marchese viene citato moltissimo in questa ampelografia universale del Rovasenda. Quindi Rovasenda andò anche a Rocchetta Tanora a vedere la collezione, la famosa collezione in vaso, e tentò anche di acquistare alcune di queste varietà tramite Gioacchino Vigna, quindi dal vivaio. Io sono andato alla facoltà di Agraria e ho trovato le schede descrittive di tutti i vitigni della collezione del Rovasenda, in particolar modo questa Pelosina Bianca, alla fine provenienza Italia, Asti, Incisa, perché è stata donata dal Marchese Incisa. La cosa interessante, andiamo in un'altra varietà, Persia Bianca. Come vedete, questa è un'altra caratteristica storica dell'ampelografia, la tipica scheda ampelografica dettagliata. Questa è, probabilmente è stata fatta stampare apposta dal Conte di Rovasenda per la sua collezione privata. Se andiamo alla fine, ecco qui, Persia inviata dal Marchese Incisa della Rocchetta. Quindi c'è il riferimento abbastanza evidente. Poi nel carteggio sempre del Rovasenda sono riuscito a trovare questa lettera, quindi Rocchetta Tanora il 24 marzo 1869, scritta da Gioacchino Vigna. Quindi era una risposta, una lettera di risposta al Conte di Rovasenda, che aveva fatto una richiesta di vitigni che non erano arrivati, che comunque il Vigna giustifica dal fatto che c'era stata una grandinata, alcune varietà erano esaurite. Quindi in sintesi, così, vi evito di leggere tutta la lettera. È interessante alla fine dove c'è scritto devotissimo servo Vigna Gioacchino, agente di Casa Incisa, come già abbiamo visto prima anche nella pubblicità della Gazzetta del Popolo. Lui era l'intermediario per quanto riguardava la collezione, il commercio della collezione. Quindi per lo studio scientifico ci pensava il Marchese, quindi bastava fare richiesta, uno andava al castello, vedeva la collezione insieme a lui. Per quanto riguardava invece l'acquisto delle varietà, bisognava rivolgersi a questo impresario, chiamiamolo così, Gioacchino Vigna. Poi ho trovato anche le lettere del barone Antonio Mendola di Favara, indirizzate al Conte di Rovasenda, dove è citata la collezione incisa. E infatti il barone Mendola scrive al Conte di Rovasenda: debbo molto dall'espedizione al vivaio incisa. E poi ho chiesto e ricevuto da Burden, che era anche un fornitore torinese di varietà di vite di alloro, ho scoperto, ho fatto anche quest'altra ricerca, là c'è un'altra storia anche. E incisa le principali uve piemontesi, quali Grignoline, il Nebbiolo, la Barbera, Fine, la Grossa, la Bonarda, la Fresa, la Moretta e il Neretto di Piemonte, tutte finite in Sicilia, nella collezione del Barone. Ecco qui, per dare un'idea di tutte le varietà che divide la collezione incisa, che sono finite in Sicilia. Tutte queste, Aleatico con Nero, Pesorgia Bianca, Pesorgia Nera, Retolan, eccetera, eccetera. E ne ho messe alcune, tanto per dare un'idea. E quadro generale, ecco qui in sintesi il quadro generale della collezione 376 vitigni del Marchese, metà della collezione è caratterizzata da varietà italiane, quasi, diciamo, l'altra metà, 42%, sono francesi, poi dalla Spagna, dall'Ungheria, dall'America, dalla Dalmazia e da altre località che ora vedremo quali sono. Quindi dalla Francia il Beaujolais, il Cabernet, Chasselas, Gamay, Pinot, soprattutto il Pinot Noir. Poi dalla Spagna, Jerez, scusate la pronuncia, Malaga, Vigni Verde, Madère, eccetera. Dall'Ungheria, Kadarkas va sempre prima, sì. Kadarkas, Okor, Zemos, eccetera, e Tokaji. Qua, vabbè, in Piemonte si chiama Tokaji, ma in ungherese mi hanno detto che si dovrebbe pronunciare Tokaji. Dalmazia, Paradisia Nera, Plavazzo Rubro, Rossera Sper. Dall'America, Clinton, De Constance Bleu e Etch Mureson, vabbè, ma dei nomi sono interessanti, quindi lo Chacouche, che forse è l'Algeria, Cipro dell'isola di tal nome, c'era scritto nel catalogo, Cocourgeon della Crimea e Fendant Blanc della Svizzera. E per giunta anche da Smirne risultano queste due varietà. Il Marchese scrive in una nota: questi due vitigni li ho ottenuti dal seme di uve appassite che mi pervennero da quella volta da Smirne, sto impaziente aspettando nel frutto. Quindi facciamo parte della sua collezione in vaso. Andiamo a vedere il Pinot della Francia, perché il primato del Marchese è quello di aver introdotto il Pinot nell'Astigiano. Infatti in questo testo dei vitigni stranieri da vino coltivati in Italia, del Mondini del 1903, nel comune Rocchettatano il Pinot è coltivato in quantità limitata da oltre 40 anni su tutte quelle colline e quasi in ogni esposizione. Fu introdotto direttamente dalla Borgogna al Marchese Leopoldo Incisa, il quale insieme ad altri vitigni francesi lo ritirò dal Piulià di Chirouble, quindi quello presso Lione, presso Romanèche, dal Boucher di Montpellier, l'ibridatore, e dallo stabilimento agronomico André Leroy di Angers. Ecco qui il saggio di un'ampelografia universale del Rovasenda, dove, in corrispondenza del Pinot, il Rovasenda scrive: «Io ho tuttavia assaggiato i due squisitissimi vini italiani fatti con quest'uva, il Pinot Nero, uno dal Marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta, l'altro dal Conte Gallesio Piuma, nipote del celebre scrittore della Pomona». Quindi fu così impressionato che lo scrisse anche nell'ampelografia universale. Ecco qui la descrizione del Pinot Noir, tratta dal testo di ampelografia del Vialà del 1901, dove mettono in evidenza, va bene, una varietà abbastanza antica della Borgogna, lo sappiamo tutti, e che comunque allora, 1901, secondo quanto scrisse Rovasenda, era abbastanza rara, non era coltivata, cioè, in quantità considerevole. Anzi, ho scoperto anche che il Marchese tentò di introdurla nell'Astigiano, ma i contadini erano resti a coltivare questa varietà, quindi si limitavano sempre alle varietà autoctone. Ecco qui una varietà invece, il Furmint dell'Ungheria, ecco la descrizione che fa nel catalogo il Marchese. Vedete, quindi l'immagine è tratta dall'ampelografia di Vialà, dove ci sono queste tavole meravigliose per quanto riguarda le varietà di viti. Quindi, come vedete, vitigno di mediocre fertilità, nelle nostre terre prospera egregiamente bene, produce uva bianca con la quale si fa il tanto celebre vino Tokaji, in ungherese, onore delle laute mense, il quale non deve confondersi con quello che si fa con le uve che portano questo nome, che però è anch'esso di molto merito come vino liquore. qua fa una rettifica rispetto a quello che c'era scritto nel primo catalogo. Sì, vabbè, qui ho anche riportato la fonte francese tratta dall'ampelografia del Viala, vabbè, dove mette in evidenza che questa varietà è la più pregiata dell'Ungheria e grazie a questa viene prodotto il vino Tokaj. Vado avanti, il Cocour Blanc della Crimea è citato anche dal Rovasenda nella sua ampelografia universale. Ecco, lo vidi presso il Marchese Incisa prima di averlo in frutto nella mia collezione. Quindi andò a vedere di persona la collezione, quindi un'altra testimonianza. Ah, ecco qui la tavola, e qui viene messo, vabbè, c'è la descrizione che l'origine cioè proviene dalla Crimea, ma in realtà è di origine greca, quindi da Corfù, anche Zante. Ecco un'altra varietà proveniente dall'Algeria. Probabilmente tramite Piuglia arrivò questa varietà, oppure se... forse aveva anche dei corrispondenti lì in Africa, chissà. Vado avanti, ed ecco un'altra varietà, Isabel dell'America, detta anche odoratissima, perché l'uva di questo vitigno è assai profumata all'odore di fragola, infatti alcuni la chiamano uva fragola o uva ananas, ma questo uso eccessivo, questo suo eccessivo profumo la rende nauseante a chi la mangia e niente adatta a far vino. Eccola qua. Vabbè, questa è la fonte in francese, dove è specificato che proveniva dalla Carolina del Sud questa varietà. Allora, abbiamo visto le varietà in generale, quindi in particolare quelle italiane, 48% dal Piemonte, poi c'è Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Friuli e Lazio, e Lombardia, Lazio e Lombardia. Quindi dalla Sardegna, Pesorgia, Nieddu Manno, vabbè, eccetera, Zinzillosa. Dalla Sicilia, come vi dicevo, sono rimasti i nomi dialettali siciliani delle varietà. E questo è stato il barone Antonio Mendola di Favara che le ha inviate al Marchese. Caduneddu, Calabrisi di Favara, Catarattu, Coducurtu. Io sono di Messina, ancora questa varietà c'è dalle mie parti. Questo Coducurtu, Fumuso, eccetera. Dalla Toscana, Ambrusco, Cannaiolo, Mammolo, Moscatello, Sangioveto. Lombardia, Paganone, Pignolo, va bene, Trebbiano, Ughetta, Uva Cerasa, eccetera. In particolare andiamo a vedere le varietà piemontesi, 45% risultano tutte in parte soprattutto autoctone o diciamo con denominazione Rocchetta Tanaro, poi Saluzzo, Acqui, Asti, Castellalfieri, Nizza, Pinerolo e altre. Io ho messo in evidenza di Asti, Badino, Dolcetto, Grignolino, Neirano, Rocchetta Tanaro, Belis, Cenerola Bianca, Pelosina, Trippa di Bo, quelli che abbiamo visto nel catalogo del Piuglia, Uva d'Agliano, Uvalone, e questo Castellalfieri, Uva Castellalfieri, denominazione volgare locale di origine da Castellalfieri, ove si coltiva in abbondanza. Vabbè. Qua ho trascritto una scheda ampelografica del Marchese relativa al Grignolino d'Asti. Vi risparmio la lettura, per dare così un'idea. Quindi c'è la descrizione del grappolo, l'acino, la buccia, il sugo, l'uva e poi le caratteristiche del terreno dove era coltivata questa varietà di vite. E poi c'erano alcune note interessanti, tipo Frankenthal dice: questo vitigno lebbi dalla Francia, però lo ritengo originario dell'Alemagna, o meglio della Svizzera tedesca. C'erano anche degli errori durante queste corrispondenze. Lombardou Lambert, quindi io ebbi questo vitigno dalla Francia, ma deve essere di origine della Germania. Esso è molto coltivato sulla costa del Reno. Bican, bianco ambrato della Francia, dipartimento l'Indre e Loire. Il conte Odard nella sua ampelografia ne chiama il frutto Raisin des Dames, scusate la pronuncia forse è scorretta, e ne magnifica la bellezza e la bontà. Ecco qui, diciamo, l'immagine tratta sempre dall'ampelografia. Brachetto, denominazione comune originario del Nizzardo, da lungo tempo coltivato nell'Astigiana o attualmente si potrebbe dire indigeno. C'è anche questo riferimento. Passaretta bianca, denominazione volgare comune astigiano, molto coltivato nel territorio dei Canelli. Quindi ho voluto mettere in evidenza. Non so, qua si ripetono, scusate. Che fine fece la collezione ampelografica? Mi sono posto anche io questa domanda. Quindi il Marchese Incisa morì a Rocchetta Tanaro nel 1871, però la collezione riuscì a sopravvivere per alcuni anni grazie ad alcuni nipoti. Ho trovato i riferimenti in queste due opere, De Maria e Leardi, 1875, la pelografia della provincia di Alessandria, e poi sempre del Mondini, vitigni stranieri da vino coltivati in Italia. Velocizzo, quindi consultando la pelografia della provincia di Alessandria, in corrispondenza di Uvalone c'è scritto: però costituisce un tipo di... vabbè, se ne ricevettero campioni unicamente da Rocchetta Tanaro, di questa varietà, e dai vigneti dei Marchesi in Cisa, ove è coltivato in piccolissima proporzione. Ora, se vedete, 1875, il Marchese è morto nel 1871, quindi i nipoti fortunatamente hanno portato avanti l'attività di famiglia. Ma chi in particolare? Infatti sono andato alla ricerca nell'elenco dei corrispondenti e c'è questo in Cisa Marchese Nicola. Poi ho fatto uno studio dell'albero genealogico di famiglia e ho trovato anche la data di nascita e di morte, 1822-1888. Nell'opera del Mondini ci sono altri riferimenti, ecco qui, il Marchese Enrico, c'è un altro nipote, Enrico Incisa, gentilmente ci conferma che alcuni esemplari di tutte queste varietà esistono tuttavia nella collezione. Le varietà più specialmente coltivate sono il Nicolà, il Picare e il piccolo Gamay del Beaujolais. E poi ci sono altre descrizioni, c'è il Gamay. E qui, ecco, il Marchese Incisa contribuì moltissimo alla diffusione di alcuni vitigni stranieri, specialmente di uve da tavola, come abbiamo notato. Presentemente però questa collezione è stata abbandonata e si trova mancante di alcuni dei vitigni posseduti in origine, nel 1903 questo. Poi, cercando sempre tra le opere, le riviste scientifiche del tempo, ho trovato questa monografia dove c'è un riferimento sempre, come vedete, ai vivai in particolar modo, ed è questa fonte del 1875, quindi in qualche modo testimonia che anche il vivaio riuscì a sopravvivere insieme alla collezione per un po' di tempo. Fra essi quelli del Marchese Incisa e del Cavalier Boschiero sono fornite moltissime varietà sia nazionali che estere. Allora, oggi queste sono immagini tratte dal sito del comune di Rocchetta Tanaro, quindi c'è il castello e i discendenti ancora continuano la tradizione vitivinicola di famiglia. Non so anche qui se sia pubblicità, ma è una constatazione. C'è l'azienda agricola con lo stemma di famiglia e attualmente loro producono, ho visto, anche il Pinot Noir, quindi quello storico del loro antenato. E in conclusione, queste sono le fonti principali da cui sono partito, come dicevo, il testo di Ricaldone del 74 sulla collezione e poi quest'opera, diciamo, dell'Ampelografia Italiana del 1800, coincidenza del 2013, proprio a Canelli hanno fatto una serie di conferenze su questo argomento. E devo ringraziare anche le biblioteche digitali, come vi dicevo, per aver avuto la possibilità di consultare dei testi che, non so, 10 anni fa sarei dovuto andare a Parigi e a Roma, quindi con tutte le difficoltà economiche, anche per avere le autorizzazioni per la consultazione dei testi, quindi immaginate. Grazie a voi anche per la pazienza, per aver ascoltato questa lunga conferenza. Vabbè.